familia Benedetti partió recientemente del puerto de Nápoles, con destino a la capital de Argentina, Buenos Aires. El papá, Angelo, tiene 32 años, es zapatero, y Francesca, su esposa, tiene 29 y es modista. Su pequeña hija, Fiorella, tiene 6 años. Esta familia viene con la ilusión de tener un mejor pasar y progresar económicamente. Papà, quanti giorni mancano per arrivare? Sono molto stanca. Oh figlia, è un viaggio di molti giorni, però sarà un posto meraviglioso, dove andrai a scuola e avrai tanti nuovi amici. Parleranno come noi? No, ma vedrai, ci imparerai in fretta, ci abitueremo. Oh Angelo, anch'io sono molto ansiosa. Come sarà la gente a Buenos Aires? Troverò un lavoro degno? Oh cara, abbiamo fede, mi hanno detto che è un posto pieno di opportunità, troveremo un posto per vivere felici, te lo prometto. Mi hanno detto che in primi giorni saremo al Hotel degli Immigranti e poi troveremo il posto per noi.